Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carlo, buongiorno a tutti. Ed ecco coach Dan Peterson che è già pronto per l'Eurolega, io credo. Buongiorno coach. Ciao ragazzi, sono a Barcellona. Appunto. Appena finito il pranzo, ho pranzato prima di tutte le città di Barcellona, che sai che cominciano tardi loro, eccetera. Sì. Quindi siamo qui, bellissima giornata, e facciamo la NBA Live Tour. Questa sera gioca New Orleans contro Washington per la seconda volta, poi torna negli Stati Uniti. Quindi, però, ciao Carlo, ciao Flavio, buonasera, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Cosa, poi parliamo anche di NBA, di Bargnani, che ieri è andato bene. Avremo più tardi un'intervista che ieri Dario Ricci ha realizzato con Danilo Gallinari, scopriremo quindi le ultimissime su come sta, su quali sono le sue idee, comprese le elezioni americane. Però vorrei partire con te, coach, dal primo giro di campionato che abbiamo visto nello scorso weekend, che non è stato affatto male, eh? Di Milano il primo squillo con Hawkins, che se trova continuità, che attaccante è? Ma lui probabilmente nel uno contro uno, se vogliamo dire così, io non so se ci sia un giocatore più forte di lui, a battere, come voi dite nel calcio, puntare proprio all'uomo e battere uno contro uno. Ovviamente hai detto tu, hai trovato la costanza, e ovviamente con questo giocatore qui è quello il punto, cioè, che lui deve stare. Lui deve, non dico 10 su 12 ogni partita, quello che hai fatto lì, o non so, 11 su 11, cioè, però deve fare una buona prestazione, non quella magari super, super, super eccezionale, come a Pesaro, per essere una cosa su quale che loro possono contare una partita dopo l'altra. Però è chiaro che la prima partita, se devo scegliere l'MVP della prima giornata, è lui. Senti, così invece per quanto riguarda la lottomatica, ti aspettavi una sofferenza così prolungata contro Caserta? No, però ci sono diverse cose da prendere in considerazione. Nella pressione di aprire il campionato in casa, a tutte le aspettative addosso, guarda caso Siena che va in trasferta senza pressione e qui e vince 35. Hanno avuto anche qualche fortuna, e la Gazzetta ha scritto anche qualche favore arbitrale, ovviamente queste sono cose da verificare, eccetera. Però forse la miglior cosa per Roma è stata questo spavento, perché Caserta, 3 minuti dalla fine, come voi sapete benissimo, era più 6, infatti io dicevo, ero lì a Sport Italia, dicevo a tutti, oh, Caserta ha sbancato Roma, ma succede, beh, 3 minuti alla fine, più 6, cioè, può succedere, però come sta andando la partita, no. Quindi avete ragione tu, Roma ha sbagliato, ha sofferto oltre ogni limite, però forse la fine della fiera è la miglior cosa per loro. Coach, invece oggi leggo, a parte che c'è la notizia di Capodorlando, l'avrai saputa anche laggiù a Barcellona, c'è stamattina la decisione del TAR del Lazio che ha messo la parola fine a questa vicenda, non avremo un ripescaggio in corsa, che sarebbe stata una cosa pazzesca, io credo, anche per l'immagine del nostro campionato. Capodorlando è fuori. Sarebbe stato allucinante, e adesso si vede che probabilmente, io ho sempre detto, il numero giusto è 16. Mm. Purtroppo adesso, a vedere i primi risultati, forse, voi sapete che una volta nel campionato italiano c'erano 12 squadre, tanto sì, per dire, qualche anno prima. A me non dico che 12 sia il numero giusto, penso che sia 16, ma bisogna trovare 16 squadre competitive, e qualche squadra non è competitiva. Forse è ingiusto giudicare Cantù, per esempio, dopo la partita contro Siena, però è chiaro che a Cantù sono preoccupati. Sì, è chiaro. E un campionato a 16 squadre ti porta anche ad avere una prima giornata in cui Milano gioca subito contro Pesaro e vince, una seconda giornata in cui hai Milano, Virtus Bologna, e poi hai tanti confronti già subito di altissimo livello. Questo non può che essere positivo, coach. Well, guarda, ragazzi, io sarò rivoluzionario, mi daranno, non so, il Che Guevara della situazione, ma io ho sempre detto, in Italia l'ideale sarebbe 12 squadre, che vuol dire 11 avversari, 2 gironi di andata, 2 gironi di ritorno, totale 44 partite, che vuol dire che ogni domenica, Siena, Virtus, Fortitudo, Milano, cioè ogni domenica c'è una sfilza di grandi partite fra grandi squadre, e questo aumenta interesse, stampa, radio, televisione, pubblico, sponsor, abbonamenti e tutto. Cioè, bisogna, la gente vuole la qualità. Certo. Questa è la parola chiave. Io batto per questa idea da molto tempo, però è chiaro dire a quattro squadre che vanno in Lega 2 non è facile. L'hai detto a Dino? Dino legge i miei articoli, questo è sicuro, okay? Quindi, ma Dino, questo non è della federazione, questo è della Lega. Comunque sì. Dino ha anche le mani piene, ragazzi, lasciamo Dino respirare un po', perché gli mancherà l'ossigeno, secondo me. Invece coach, guardando, c'è stata solo una giornata di campionato, dunque è ancora presto chiaramente per esprimere giudizi di un certo tipo, però è anche vero che mi pare di capire che quella di quest'anno non sarà una stagione un po' anomala tipo quella dell'anno scorso, dove diverse grandi o presunte tali hanno fallito e che ci sono state diverse provinciali tra virgolette che hanno fatto un'ottima stagione. Well, io penso questo, le due bolognesi secondo me magari non come i tempi d'oro, ok? Inutile dire che la Virtus e Fortitudo sono squadre di Final Four Eurolega adesso, ok? Però si è visto, c'è proprio la Fortitudo con Joseph Forte, la Virtus Bologna con Boykins, hanno vinto la prima giornata, questo è importante, ok? Pesaro leggermente, c'è una delusione per qualcuno, eccetera, ma Pesaro deve convincere ancora, non ha, come dite voi, deve convincere, non soffrire. E vedo che la prima vittoria di Treviso, pure sofferta per loro dopo questi due anni travagliati, di proprio segnati proprio da vicissitudini che sono veramente allucinanti, forse anche queste tre squadre, due bolognesi più Treviso, possono tornare a fare qualche squillo nel campionato. Roma deve far meglio, chiaramente. Milano ha avuto la prima vittoria, Siena c'è. Sei squadre abbiamo adesso che sono, diciamo, competitivi, che non faranno Siena fare una vacanza quest'anno, che li faranno impegnarsi al massimo. E poi non dimenticare che Siena, Milano, Roma e Avellino, quando cominciano l'Eurolega, la fatica diventa doppio. Certo. Coach, io vorrei tornare al discorso di Dino, perché lui nell'intervista di oggi sulla Gazzetta lancia questa domanda agli appassionati di basket italiani. Facciamo un mini sondaggio anche noi, magari col numero verde 800240024. Io lo chiedo a te, coach. Meneghin vuol sapere dagli appassionati di basket se a loro interessa solo vincere, e quindi a prescindere dal numero degli stranieri, come qualcuno dice, o se si identificano ancora nei giocatori italiani. Dino vuole sapere questo anche per sapere come lavorare, cioè lavoriamo sugli italiani, aumentiamo il numero di italiani, proviamo a fare questo, oppure, come dice ad esempio sempre Boniciolli, al tifoso interessa vincere le partite. Tu cosa dici? Meneghin è super intelligente e diciamo anche super furbo, se voglio dire, nel senso giusto, non voglio una parola negativa, ma nel senso di essere molto accurato come fa le cose, perché le mette davanti il pubblico, la stampa, mass media, tifosi, TV, radio, eccetera, di rispondere a questa domanda. Però io, se devo dire la mia, chiaro che il tifoso vuole vincere, vuole vedere la squadra vincere, però io devo dire questo, che sento tanti tifosi dire: ma io non conosco i giocatori, uno è qui per due mesi, poi va via, un altro viene, poi lui va via, cambiano di giocatore come le mutande, un paio al giorno, e i tifosi si stancano di questo qui. E diciamo la verità, se gli italiani sono validi, vorrebbero vedere anche i giocatori italiani. La parola operativa è valido, deve essere un giocatore valido, non gli italiani deboli che vanno in campo e vengono spazzati via da chiunque. Ci vogliono i Gallinari, i Bellinelli, i Bargnani, e altri giocatori, Melli, questa bambina del Reggio Emilia, Vitale che gioca a Milano, cioè giocatori che sono, diciamo, nel mirino delle squadre NBA, gli scout vengono a vedere loro. Questi sono giocatori, guarda, io che vivo a Milano, anche se non vedo tante partite, ma voi non potete immaginare quante persone mi hanno chiesto durante questi due anni di Danilo Gallinari: ma Danilo, ogni domanda Danilo, quindi non mi chiedono, non so, di Hawkins adesso o Nate Green due anni fa o George, Danilo, quindi si identificano ancora con i giocatori italiani. Però non regalare a loro il posto. Quintetto, non regalare, far loro lavorare e meritare il minutaggio, i tiri, i punti che faranno. È quello che Dino dice, ma si deve lavorare sulla qualità, perché se vogliamo i giocatori qualità. Italiani devono qualità. Lavorare loro sulla qualità prima di tutti gli altri, prima di pretendere posti e ingaggi, Flavio. E devono anche tornare, come dicevi tu, a essere convenienti, o comunque che il rapporto qualità-prezzo sia sostenibile da parte delle società. Però, visto che ci avviciniamo tra poco alle informazioni sul traffico, possiamo varcare i confini italiani per andare un po' a parlare di Eurolega. Volentieri. Eurolega, coach, 4 squadre, una tua opinione, diciamo generale, prima poi di addentrarci nel particolare. Siamo un po' messi meglio rispetto all'anno scorso? Cioè l'Italia può avere delle rappresentanti un po' più credibili al di là delle sole Siena, ovviamente, e Roma in seconda battuta? Allora, io voglio essere, permettermi, cioè, non sto criticando, voglio essere cauto, voglio essere magari addirittura uno dirà pessimista, ok? E se io vedo 4 squadre italiane o 3 quest'anno uscire dalla prima fase e andare al top 16, 4 su 4, questa è la mia idea. Bellissimo Siena l'anno scorso al Final Four e meritava andare in finale, e vi dico una cosa allucinante, perché l'ha buttata via Siena 18 punti di margine con Maccabi. Complimenti a Maccabi per la rimonta, però Siena doveva uccidere la partita. E se Siena fosse andata in finale contro CSKA Mosca, il mio pronostico sarebbe stato per Siena. E Messina, Ettore, mi ha detto a voce anche lui dopo: temevamo Siena, è la squadra che fisicamente, atleticamente, altezza, ruolo per ruolo ci marcava e ci dava problemi più di qualsiasi altra squadra in Europa. Ettore non è mica l'ultimo nato, quindi non voglio dire Siena è andato al Final Four, siamo a posto. No, io voglio vedere 4 squadre italiane andare al top 16. Questa vuol dire qualità. Questo è l'obiettivo. Poi più tardi vi faccio anche il mio pronostico sulle prossime Final Four, perché dopo sono capaci tutti, bisogna farlo adesso. Se volete anche voi, 800240024. Ma io, prima di salutare il coach, volevo andare dall'Eurolega, di cui parleremo poi ampiamente più tardi, all'NBA, che il coach commenterà stasera da Barcellona. Gallinari lo sentiamo dopo, no? Con il mal di schiena, la schiena che sta guarendo, eccetera eccetera. Intanto Bargnani infila una super prestazione dietro l'altra, d'accordo che è solo precampionato, però anche ieri 22 punti contro Minnesota, e ha ricominciato a tirare da tre, cosa che il suo allenatore gli aveva impedito di fare. Beh, guarda, come diciamo noi in America, un leopardo non cambia mai qua, ok? Quindi Bargnani è quello lì, è un grande tiratore da tre, ma Sam Mitchell, è giusto che lui esiga a Bargnani di diventare un attaccante più globale, certo, più pericoloso in tutti i reparti. Ma certo che è giusto, ci aspettiamo una grande stagione, però deve cominciare ad aggredire quel canestro. Il tiro da tre sappiamo che lo sa fare, deve dimostrare di saper fare il resto, insomma, coach. Esatto. Grazie coach, buon lavoro. Ragazzi, ditemi la prossima volta come va il sondaggio di Meneghin e cosa che vi ha detto oggi Danilo, ok? Certamente. Amici sportivi di Radio 24, Flavio e Carlo, amici sportivi, ciao a tutti. Ci sentiamo venerdì, grazie coach, buon lavoro. Ciao, ciao. Sul sondaggio adesso stiamo raccogliendo i primi exit poll, no? 800240024, numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi. No, perché è una domanda cruciale questa, Flavio, questa che Meneghin fa. È la domanda cruciale, cioè è vero che vi interessa, come dice Bonicioli mille volte, l'ha detto ai nostri microfoni, ma al tifoso non interessa mica se uno è ceco, slovacco, croato, serbo, al tifoso interessa vincere. Io le mie perplessità, così come Meneghin, me le tengo, perché è vero che gli interessa vincere, però gli interessa anche identificarsi in una squadra, in un gruppo di giocatori, in qualcuno cui veramente affezionarsi. Vitali a Milano, ad esempio, può essere l'erede di Gallinari nel cuore della gente, chissà. Tanto domenica a Pesaro, è vero, la grande partita di Hawkins, ma il canestro decisivo l'ha fatto Vitali, 4 punti, 3 dei quali decisivi, dopo una partita incredibilmente brutta da parte di tutti gli esterni di Milano, che Hawkins a parte mi pare abbiano tirato 2 su 28 dal campo. Quindi. Eppure io scommetto su una, l'ho già detto la settimana scorsa, domenica, nel commentare le partite di campionato. Tra l'altro vi ricordo anche l'appuntamento della domenica dopo il GR delle 20, siamo qui dai campi di Serie A per raccontarvi tutto. Io scommetto una grande stagione di Massimo Bulleri, liberato, da grazie a Vitali a mordente, dalle pressioni di playmaking. Non dimentichiamo che lui le sue migliori stagioni le ha fatte col playmaker occulto, fosse esso Pittis o col playmaker dichiarato, fosse esso Tyus Edney, però con qualcuno che lo alleviasse dai compiti di regia. Eccoci tornati, abbiamo in linea Antonio da Genova, già diversi messaggi, 349-238-6666, cosa dicono Flavio? Beh, c'è intanto è cominciato il toto finaliste per l'Eurolega. Jack scrive, Zesca, Montepaschi, Barcellona e Panathinaikos. Vanno vicino alle mie, ma... Io ne ho tre di queste, ma una no. Sì. Io dico le mie, così cominciamo. Zesca, Montepaschi, Olympiakos, Panathinaikos. Sono d'accordo su queste. E anche il mio pronostico me l'hai rubato, l'hai letto sul foglietto. C'è anche chi scrive Serie A 1, liberalizzazione totale, giocano i migliori al di là del passaporto. Lega 2 e Serie A almeno, almeno Serie A dilettanti naturalmente, quindi la vecchia B1, insomma, chiamiamola come vogliamo, questo moltiplicarsi di Serie A è almeno sospetto. Comunque almeno tre italiani convocabili in nazionale sempre in campo. Io sul concetto di sempre in campo, come dicevo prima Flavio Suardi a microfoni spenti, non sono poi d'accordissimo, perché è un qualcosa che costringe gli allenatori a degli equilibrismi tattici, a degli equilibrismi di quintetti che secondo me stravolgono un po' il feeling del gioco. Quindi sul sempre in campo non sono d'accordo. Certamente la Lega 2 deve diventare il campionato chiave. Lì mi piacerebbe vedere due extracomunitari e poi tutti gli altri... 8 più 2 facciamo. Facciamo 8 più 2, lì tutti gli italiani che lo meritano in campo. Ma perché lì, insomma, il recente passato dimostra come lì si sono formati poi giocatori che sono andati al piano di sopra a fare la differenza. Gallinari, ma possiamo anche andare indietro, avanti con Melli, possiamo andare indietro con... i tempi della Trieste di Tanjevic, una squadra che è partita con un progetto in B1 ed è salita in Serie A con lo stesso progetto di cui facevano parte De Paul, Cantarello, Dacio Bianchi, Bodiroga, poi il concetto di Lega di sviluppo, il concetto di Lega di sviluppo che noi dovremmo cominciare a mutuare dall'NBA. Ma sentiamo Antonio da Genova, cosa ci dice? Buonasera. Anzi, buongiorno, dica. Salve, buongiorno a tutti. Senta, volevo fare il mio pronostico sull'Eurolega per quello che vale. E volevo dire Siena, perché secondo me ha aggiunto veramente quell'atletismo e quell'esperienza che l'anno scorso mancava, come diceva magari anche il coach. Poi volevo chiedere al coach appunto una sua opinione sulla scelta di Treviso quest'anno, anche se non farà l'Eurolega, sul fatto di aver deciso di puntare su due giovani italiani di livello come Rullo e Renzi, e secondo lui come se questa scelta pagherà oppure no. Ma grazie, intanto, mille. Grazie a lei Antonio, intanto vediamo se quanto ci puntano su Rullo e Renzi. No? Rullo è entrato in campo da playmaker titolare l'ultima partita in casa, quella che Treviso ha vinto contro Avellino, quindi la prima di campionato, anche per necessità contingenti, perché da Sean Wood si è fatto male, ha problemi, ha un ginocchio, è stato sostituito da Bobby Dixon che era già in rosa da parte di Treviso, però Mark Muti ha deciso di premiare Rullo con la regia, quel posto da playmaker titolare, quindi non so se ci fosse stato da Sean Wood probabilmente Rullo non avrebbe giocato titolare, magari qualche minuto l'avrebbe avuto anche, ma non così tanti e non così responsabilizzati. Io voglio vedere gli italiani giocare i palloni decisivi, questo fa la differenza, come ha fatto ad esempio domenica Vitale alla sua prima in maglia Armani Jeans. Flavio, andiamo sulla cronaca di giornata. Dice che c'è la sentenza del TAR del Lazio. Esattamente. L'ANSA questa mattina, a metà mattina, diciamo, ha praticamente battuto questa notizia, cioè che il TAR del Lazio ha confermato l'esclusione dell'Orlandina. Non è stata fornita prova del ripianamento del debito con l'Empals. Questa è la motivazione, scrive l'ANSA, con la quale il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di Capo d'Orlando di sospendere la sua esclusione dal prossimo campionato di Serie A. Chiaramente la possibilità di vedere un campionato a 17 squadre con Capodorlando ripescata e diciamo riposante alla prima giornata già passata erano davvero poche, così si è spento tutto, insomma, quindi noi, l'Orlandina sparisce. E noi abbiamo in linea Meo Sacchetti, che fino a oggi, fino a questa mattina, ha continuato a rimanere a Capodorlando e a lavorare sull'ultimo barlume di speranza. Meo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Come hai vissuto le ultime settimane, Meo? Beh, questo non lo auguro a nessuno, perché effettivamente è stata uno stillicidio, perché già questa notizia il 20 di settembre ci è arrivata un po' tra capo e collo, però avevamo sicuramente un bel gruppo sia di lavoro con Vacirca e i miei due assistenti, e siamo riusciti a stare tutti assieme per 15 giorni fino alla prima sentenza della Camera di Conciliazione, i ragazzi sono rimasti lì. Poi dopo la prima risposta negativa, i ragazzi avevano avuto delle offerte da giocare ed era giusto che andassero a giocare da qualche parte senza aspettare l'eventuale risposta del TAR. Perciò chi ha avuto delle richieste è andato, però siamo stati assieme 15 giorni a lavorare, i ragazzi ci credevano in questo, onestamente ci credevamo anche noi, però è andata come è andata. Ecco, Meo, però probabilmente quando è arrivata l'esclusione dalla Camera di Conciliazione arbitrato del CONI, forse anche voi avete un pochino smesso di credere nel ripescaggio da parte del TAR, o sbaglio? Ma sai, voglio dire, è logico che quando tu hai una speranza te la vuoi coltivare fino alla fine, perché speri sempre, come dicono, un qualcosa che ti permetta poi di giocare. Però il problema non è stato questo. Il problema, se posso permettermi di fare un excursus, è questo, che non si può arrivare a questo punto. Cioè, io non entro nel merito della questione se noi siamo colpevoli o non siamo colpevoli. Io dico solamente che una federazione che deve controllare delle società che siano in regola, le deve controllare sicuramente prima di una certa data, in modo da permettergli di avere la possibilità di ripianarsi in questa situazione. Ma il discorso, se sia giusto o non giusto, è che i giocatori non possono arrivare al 20 settembre in una situazione che si sapeva prima. Questo sono d'accordissimo con te, ma l'ha detto anche Jack Galandi in una recente intervista. I piani ci dicono che per capire quanti italiani giocheranno in Serie A bisogna aspettare, fare i programmi a lunghissima scadenza, e poi due giorni prima dell'inizio del campionato tagliano la testa a Napoli e Capodorlando. E quanto alla tempistica siamo d'accordissimo. Meo, ti chiedo un'ultima cosa molto rapida. A Capodorlando ci sono le basi per ripartire, per ricostruire? Ma guarda, ti dico, qui è capitato tutto troppo in fretta e ci credevano molto in questo, e adesso c'è un po' di smarrimento sotto questo aspetto. Però la passione è tanta e bisognerà vedere come si prosegue di questa situazione, però effettivamente è una cosa molto importante. Grazie Meo. Figurati, ciao. Grazie, buon lavoro Meo Sacchetti. E in bocca al lupo, che tra l'altro Sacchetti certo. aveva rifiutato alcune offerte, certo, firmando un contratto biennale, quindi per questa e per la prossima stagione, e dunque si trova, come alcuni giocatori, ne avevano 5, tra cui per esempio Edney, Kander Medley, che è l'altro americano molto bravo che avevano reclutato Vacirca e Sacchetti, si trovano senza squadra. Chiaramente lui magari ha anche rifiutato delle proposte per amore di Capodorlando. Non magari, sicuramente le avrebbe. Sulla tempistica non possiamo non essere d'accordo con lui, senza entrare nel merito. Proviamo a riannodare i fili con Flavio Suardi qui vicino a me, poi Fabio Cantadone in regia, Gigi Borghi in redazione. Io vedo anche tanti messaggi, aspetto telefonate 800 24 00 24, come chi, oppure messaggi 349 238 6666. Ad esempio, io vorrei vedere più italiani, sono sicuro che in giro ci sono. Ma che ne pensate di Teramo con Poeta Amoroso? Squadra interessante, Teramo con Poeta Amoroso, caro ascoltatore. Vedere Amoroso che alla fine... Io mi aspettavo che Amoroso trovasse un ingaggio magari in una squadra, magari non di altissimo livello, però di una squadra di un certo spessore, con tutto il rispetto, per carità, per Teramo, perché non vorrei che adesso arrivassero i messaggi dei tifosi di Teramo che dice ecco... Perché secondo me ne ha le qualità per questa ma poi reduce da due ottime stagioni, quantomeno Amoroso. Più tardi vi ho anticipato, sentiremo l'intervista di Danilo Gallinari in chiusura di programma. Danilo Gallinari da New York ha parlato ieri con il nostro Dario Ricci. Però adesso vorrei tornare sul tema Eurolega e farlo con cognizione di causa, dopo che abbiamo dato i nostri pronostici per le Final Four. Perché, ripeto, dopo sono bravi tutti, adesso per noi siamo stranamente d'accordo io e Flavio Suardi, CSK Panathinaikos, Olympiakos e Siena. Queste le Final Four che immaginiamo. Ma ne parliamo con chi ce la racconterà l'Eurolega attraverso i microfoni di Sky, cioè Jerry De Rosa. Ciao Jerry. Ciao, ciao a tutti. Il tuo pronostico, tanto per cominciare? Ma ho sentito il vostro e direi che è difficile sbagliare. Aggiungerei anche l'Efes Pilsen, che insomma ha costruito una squadra molto interessante. Sono curioso di vedere l'impatto che avranno i due ex avellinesi sull'Eurolega, perché l'anno l'anno scorso hanno avuto un impatto devastante, il campionato turco è di quelli tosti da giocare, perché ci sono viaggi anche lunghi e trasferte complicate. Il vedere Fespilsen e Fenerbahce comunque, che sanno anche molto di campionato italiano, nel campionato turco e nell'Eurolega, insomma, mi incuriosisce molto. Quindi Fespilsen e Fenerbahce con Marcus Green e Devin Smith, che l'anno scorso ci hanno impressionato. Aggiungerei queste due outsider. Chi sale, chi scende? Salgono senz'altro le turche, scendono un po' ad esempio il Maccabi Tel Aviv, che non vedo più così competitivo, ma secondo me anche il Barcellona, e aggiungerei forse le spagnole tutte. Le spagnole tutte, però attenzione al Tau, perché relativamente al Tau questo è un discorso che si fa ogni settembre, chissà cosa farà. Quando abbiamo detto ha perso Nozioni, poi ha perso Scola, no, non farà, però alla fine c'è sempre il Tau, quindi credo insomma che lì si respiri un'aria particolare quando si parla di Eurolega. Il Barcellona è interessante, ha rinunciato alle grandi stelle, ha puntato su, più che altro, su un gruppo compatto. Secondo me potrebbe essere l'anno di Liasova, che l'anno scorso ha fatto intravedere il suo immenso potenziale, secondo me potrebbe quest'anno diventare una grande stella. Il Maccabi ha sempre obiettivamente problemi a fare il mercato, perché insomma non tutti vanno con tranquillità a Tel Aviv, parliamoci chiaro. Però l'arrivo di Carlos Arroyo quantomeno dà molto pepe alle partite del Maccabi, un giocatore che in ogni caso fa divertire. Sarà difficile dimenticare la partita di Arroyo alle Olimpiadi di Atene contro gli Stati Uniti. Sicuramente, quella ce l'abbiamo. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederla, ce l'abbiamo in testa. Io, anche là il suo sorriso. E anche il suo sorriso alla fine. Io stavo guardando, mentre voi ricordate queste cose, stavo guardando i roster per rinfrescarmi un po' la memoria anche delle due greche di cui abbiamo parlato, cioè Panathinaikos e Olympiakos. Devo dire che l'Olympiakos quest'anno, se possibile, si è davvero, forse l'ha addirittura superato il Panathinaikos. Non so cosa ne pensi, Jerry, almeno a livello di nomi. Ah, sulla carta sicuramente, anche perché si è parlato degli arrivi, che sono tanti, ricordiamo Papaloukas, Vujicic, Halperin, per non parlare di Josh Childress, è stato il colpo quantomeno a livello mediatico dell'estate, però ha tenuto anche l'Ingrier, di lui si parla poco. E poi, se Matsiauskas ricomincia a fare il giocatore... Anche se è difficile, insomma, purtroppo per Matsiauskas le notizie dalla Grecia non sono entusiasmanti, insomma, sembra che proprio faccia molta fatica a recuperare, però se dovesse recuperare anche lui addirittura parleremmo di super squadra. E l'Olympiakos è anni che cerca di superare il Panathinaikos, alla fine non ci riesce, adesso si è affidata totalmente a Giannakis e insomma la proprietà sta cercando di investire il più possibile, cercando quantomeno di superare la tradizionale avversaria a livello mediatico, insomma a livello di rumore che si fa attorno alla squadra dei giorni scorsi, no? La notizia dell'offerta che verrà fatta a Kobe Bryant di 60 milioni abbondanti, insomma, per arrivare neanche troppo in là nel tempo all'Olympiakos. Mi sembra questo fantabasket, però è vero che in questo periodo, insomma, con il rapporto euro-dollari possiamo aspettarci l'arrivo, magari non di Kobe Bryant, ma di qualche superstar NBA, sì, in Europa. Sì, a me ricorda quella estiva a Eto'o da parte degli Uzbeki. Esatto. però staremo a vedere. Senti, Jerry, invece che ruolo possono giocare realisticamente? Parlavamo prima anche con Coach Peterson, sono curioso di sentire la tua, Roma e Milano in questa Eurolega. Avellino farà una bella esperienza, ma senza grandi velleità. Roma e Milano cosa possono dire? Allora, la Roma, a me, guardando il roster, piace molto. Quest'anno è finalmente una squadra completa. Io l'ho vista bene, però domenica è ancora lontana dall'essere una squadra vera e propria. Ha tutte le potenzialità per esserlo, ha l'esperienza giusta per quanto riguarda gli esterni con Becirovic e Jaber, e poi appunto ci attendiamo tutti Jennings, cerchiamo di capire cosa potrà fare. Insomma, la prima uscita non è stata un granché, a dire la verità, anche se le potenzialità quelle non ci sono senz'altro, però insomma contro i playmaker che si trovano in Eurolega, un 19enne fa fatica, chiunque esso sia, almeno nelle prime partite, però potrà dare una mano, anche perché di maestri ne ha tanti. Soprattutto quest'anno Roma è tosta, ma davvero tosta sotto canestro, con Hudson, soprattutto con Gigli che finalmente sta bene, in attesa che Brezec faccia valere tutti i suoi 200 centimetri. Stavo giusto dicendo quello, in attesa, perché se il problema di Roma è sempre stato in maniera abbastanza anche endemica quello del centro nelle ultime stagioni, Brezec nella prima uscita sinceramente non credo che abbia fatto vedere tutto il suo potenziale. Hudson invece invece è un giocatore che ha fatto vedere tutto quello che potrà dare, e soprattutto mi sembra un giocatore essenziale, ecco, nel senso, uno che non forza un tiro, uno che non va mai fuori posto, ecco, un giocatore che a me piace moltissimo, insomma. Sì, sì, infatti giocherà tantissimo, poi uno come Repesa, questi giocatori giocano tantissimo. Brasic da sempre nell'NBA, anche nell'NBA, insomma, gli hanno sempre imputato un po' di andare un po' morbido a rimbalzo, e anche domenica si è un po' visto, a volte non sembra neanche così grosso, però insomma credo che con qualche bottarella che prenderà nei primi di Eurolega, anche lui, insomma, che è uno molto orgoglioso, si farà sentire. Per Milano vale un po', magari fate le debite proporzioni, però un po' il discorso con Avellino. Milano è al primo anno di un progetto a lunga scadenza, la squadra non è costruita per vincere l'Eurolega adesso, forse neanche per vincere il campionato, è costruita intanto per ricreare, insomma, l'amore attorno a questa squadra, e mi sembra che i primi obiettivi ci sono col nucleo italiano, eccetera. Milano, ma vale anche per il campionato, dipenderà molto da Hawkins. Se Hawkins, certo, è quello di peso per tutta la stagione, allora le top 16 ci sono, secondo me, sicuramente. Però Hawkins abbiamo visto a Roma, insomma, capace di essere assolutamente immarcabile, poi in altre partite di marcarsi da solo. Di Hawkins si riduce a una parola, caro Jerry: continuità, e tu lo sai meglio di tutti. Esatto. Ti chiedo ancora questo: vedo le russe in generale, non solo quelle di Eurolega, sempre più forti. La geografia del basket e soprattutto la geografia del denaro porta lì. Una volta per i talenti della vecchia Unione Sovietica, no? Da Bielov fino a Sabonis, metteteci chi volete, adesso questione di dollari. Fatto sta che le squadre russe, ripeto, anche quelle che non fanno strettamente l'Eurolega, sono impressionanti. Sì, davvero, il campionato è davvero incredibile. Quest'anno più che mai credo che il CSK dovrà stare molto attento. L'anno scorso ha già perso la Coppa di Russia, era un periodo dell'anno difficile con tanti infortuni per il CSK, però ha cominciato un po' a vedere intaccato il proprio dominio. E quest'anno con il Khimki, la Dinamo Mosca, così, ma ci sono poi anche altre squadre che hanno fatto un mercato davvero interessante. Insomma, da essere il miglior CSK per tutta la stagione, in particolare, insomma, nei playoff, quando l'assalto si farà veramente duro. Del resto Garbajosa, Delfino, insomma, è solo per citare qualche nome che è arrivato dall'altra parte, Pargo, l'ex giocatore dei Lakers che è arrivato alla Dinamo Mosca, Nakmar che è tornato, insomma, tutte cifre strepitose. E infatti la stona obiettivamente vedere che in Eurolega c'è solamente una squadra russa, in cui ormai è un po' di anni che è così, magari non come quest'anno in maniera così clamorosa, però un po' di anni che almeno due, se non tre, squadre russe valgono l'Eurolega. Beh, certamente, tra l'altro senza dimenticare sono campioni d'Europa in carica. Grazie Jerry, buon lavoro, buona Eurolega. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Andiamo subito a parlare con gli ascoltatori, perché a Daniele si è aggiunto Franco dalla provincia di Venezia. Daniele, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi concesso lo spazio. Dica. Niente, volevo solo dire che è difficile investire sui giovani quando poche società così grandi e poche piazze come Pesaro e altre, Reggio Emilia, investono sui giovani. La qualità, se non si investe, è molto scarsa. Sì. Questo l'ha dimostrato il nostro campionato italiano. Poi è giusto quello che dicevate voi, nel senso che si devono guadagnare i minuti, i diciottenni. Sì. Però è chiaro che senza investimenti non ci sono i ritorni, lei ha ragione, ma io dico investimenti soprattutto in termini di insegnanti qualificati, perché è così, ma lo dice lo stesso Meneghin, no? Bisogna capire come si lavora sui settori giovanili. Ci sono società che lo fanno e l'hanno sempre fatto in maniera molto seria, partendo dagli istruttori. Ci sono società invece che hanno trascurato completamente il discorso e devono cominciare a riannodare i fili. Questo non c'è dubbio, ma ripeto, sui settori giovanili si parte da chi insegna, dai maestri della scuola, poi vediamo qual è il materiale umano a disposizione. Franco, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo spezzare una lancia fuori del mondo del basket portandone un esempio. Sì. Domenica ho portato mio figlio che ha 6 anni e fa mini basket per la prima volta a vedere una partita in Serie A, e siamo stati a Treviso. Al di là di aver visto una gran bella partita, a fine partita siamo scesi sul parquet e mio figlio ha potuto vedere il parquet dal vivo, diciamo. Sì, fare due tiri magari col pallone che si era portato da casa. Sì, esatto. Sì. E a fine partita, ma proprio con una gentilezza e una affabilità estrema, l'allenatore del Treviso e vari giocatori si sono fermati, gli hanno firmato l'autografo, l'hanno abbracciato, hanno riso insieme a lui, il coach è stato gentilissimo, gli ha fatto la battuta che quando diventerà una star del basket non si ricorderà più di lui, quindi proprio una situazione, un ambiente che, se vogliamo, Franco, paragonarlo al calcio, no, non c'è paragone, non c'è paragone, non ci sono santi e non ci sono diavoli, la pallacanestro è così, cioè non è un'eccezione quella che lei ha provato con il suo bambino, la pallacanestro è così. È così. Ed è il bello, ancora il bello del mondo della pallacanestro. Anche se oggi ho ricevuto una mail di un ascoltatore di Genova, Daniele, che si sta riavvicinando alla pallacanestro, sentendoci, vedendo la pallacanestro su Sky, e che parla del pericolo di infiltrazioni di ultra nel mondo del basket, a partire dal divieto di trasferta dei tifosi di Caserta a Roma. Ultra del calcio nel mondo del basket, io credo che, insomma, non ci sia, non esista questo rischio. Anche il mondo del basket, anche nel mondo del basket non sono tutti cherubini, questo lo sappiamo, abbiamo ampi esempi, ampie testimonianze in passato, però io non penso ci sia questo rischio. Mi auguro e voglio pensare che questo rischio non esista e che la norma sia quella che ci stava raccontando il nostro ascoltatore da Venezia. Ma è il momento di Danilo Gallinari. Vogliamo sapere, a partire da come sta, intervista di ieri di Dario Ricci alla grande speranza bianca italiana ai New York Knicks. Sentiamolo. Sto meglio, in queste settimane ho iniziato a fare dei lavori atletici abbastanza tosti, quindi atleticamente sto recuperando, sto meglio e quindi si avvicina sempre più il momento in cui inizierò a lavorare anche con la squadra. Quindi, insomma, rimani chiaramente nel gruppo della squadra, scongiurato il pericolo che qualcuno aveva avanzato di qualche settimana nella Lega di Sviluppo. Non se ne parla neanche. Insomma, coach D'Antoni ti vuole vicino a lui. Ecco, da questo punto di vista, come va il rapporto con il grande Arsenio Lupin del nostro basket? Come... Va molto bene, penso che sia una grande persona, prima ancora che un grandissimo allenatore, quindi questo è molto importante perché diventa molto più facile lavorare con lui. Per me è un onore poter lavorare con lui perché, piacendomi molto comunque la storia del basket, so quello che ha fatto, so chi era e quindi cosa ha fatto in Europa, e quindi per me essere un suo giocatore è un onore. Senti, le cronache qua in Italia ci dicono che vi sta somministrando dosi massicce di filmati dei Phoenix Suns per far passare la filosofia del suo basket, è proprio così? Sì, i video adesso sono diventati più video nostri perché col discorso che stiamo giocando già delle amichevoli, così stiamo riflettendo molto e stiamo facendo video sulla nostra squadra, sui nostri giochi. Video con Phoenix sono stati più nella preparazione che abbiamo fatto 2 settimane fa, in cui i video nostri non ce n'erano e quindi ci ha fatto vedere molti video di Phoenix. Dal punto di vista dello spogliatoio, quello di New York, quello dei Knicks, è sempre stato uno spogliatoio esplosivo per le forti personalità, per i giocatori del tutto particolari che sono nel roster. Ecco, come ti sei inserito nel gruppo finora? Con chi hai legato di più anche? Ti dico... Sono molto legato a Jamal Crawford, Malik Rose e David Lee, però ti dico, come le voci che comunque giravano non le vedo confermate, nel senso che secondo me è un gruppo super, in spogliatoio c'è molta tranquillità e si respira molta tranquillità, e tutti contenti di lavorare per il coach, tutti contenti di essere e decisi a stare nella stessa pagina per poter lavorare assieme. Invece dal punto di vista tecnico-tattico, cosa ti ha colpito di più dell'NBA per come l'hai assaggiata finora? Ma ti dico la verità, sul parquet non magari qualche giocatore particolarmente fisico, però generalmente ti dico, finché non ero mai stato negli Stati Uniti e vedevo il basket NBA in tele, pensavo ci fossero grandissime differenze, invece venendo qua, tastandolo e respirandolo, vedo molte meno differenze, più similitudini, diciamo, col campionato europeo italiano. Quello che sta per iniziare è anno importantissimo per te, ma altrettanto decisivo per Marco Bellinelli a Golden State e Andrea Bargnani a Toronto. Ecco, li ha già sentiti, quali sono le loro impressioni, siete in contatto, che annata ti aspetti per loro soprattutto? Ma ti dico, mi aspetto una bella annata, nel senso che sì, Andrea e Marco ormai hanno dell'esperienza anche in NBA, quindi Penso che erano dei grandissimi giocatori a livello italiano e europeo, e penso che possano esserlo anche in America, quindi mi auguro il meglio per loro. Fuori dal campo, New York, che effetto ti ha fatto? La grande mela, in che modo ti ha sorpreso, ti ha stupito, e com'è anche la tua giornata fuori dalla routine degli allenamenti, delle terapie? Ti dico, la città è sempre viva, 24 ore su 24, c'è sempre qualcosa da fare, tantissima gente, conosci tantissima gente, ti apre talmente tanti orizzonti che non te li apre nessun'altra città. La mia vita fuori dal campo è abbastanza semplice, nel senso che vivendo comunque a 50 minuti da New York, sto abbastanza a casa, giro nella cittadina di White Plains, qualche volta mi capita di andare nella città per una cena, un evento, un'apparizione, queste cose qui, quindi insomma un po' così la giornata, dai. Chiaramente grande attesa per l'NBA che parte, ma altrettante sicuramente anche di più dal punto di vista politico per le elezioni americane. Ne parlate nello spogliatoio, visto che negli Stati Uniti c'è la consuetudine comunque di schierarsi, di dire apertamente il proprio voto. Insomma, Obama, McCain, i Knicks da che parte stanno? Ma i Knicks generalmente stanno dalla parte di Obama, ti dico, qualche volta capita di parlarne, tutti quelli che ho sentito con cui parlo sono per Obama. Tutti per Obama e New York Knicks, lo dice Danilo Gallinari in questa intervista di Dario Ricci. Noi abbiamo giusto il tempo per i saluti. Grazie Flavio Suardi, alla prossima, a venerdì prossimo. A venerdì prossimo. Gigi Borghi in redazione, Fabio Cantadone in regia.